mattina di primavera, con la mia faccia davanti al sole, per il sorriso della mia sposa, per il mio amore, per i pensieri. Ho visto Genova da vicino e i genovesi sul davanzale, ho visto guerra dentro un giardino e la mia foto sopra un giornale. Io sono qui con le braccia in alto, sono qui e non mi nascondo. Io sono qui con le braccia in alto, sono qui e non mi nascondo. Davanti al sole, per il sorriso della mia sposa, per il mio amore, per tutti i pensieri e i miei pensieri, tutti d'amore. Io sono qui con le braccia in alto.